America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, tonfo a Wall Street. Beh, tonfo un po' su tutte le borse mondiali, direi che la risposta dei mercati al G20 di Toronto non è stata poi così rassicurante. Bene, il Dow Jones in particolare ha perso il 2,65%, ma è arrivato a perdite fino al 3,2% nel corso della giornata. Il Nasdaq addirittura il 3,85%, l'S&P 500 3,10% di perdita. Siamo a quota 9.870 con l'indice Dow Jones, una perdita in termini assoluti di 268 punti in una giornata. Beh, che cosa è successo? Ma semplicemente è successo quello che ormai succede da qualche tempo a questa parte. I mercati sono nervosi, non è che ci sia una notizia in particolare, c'è molta fragilità e preoccupazione sul fronte della tenuta della crescita. Ed ecco che quando ieri in America è stato annunciato che l'indice della fiducia dei consumatori era precipitato di 10 punti da 62 a 52 e gli analisti si aspettavano in realtà che restasse stabile attorno a 62, ecco che subito l'America ha preso una piega negativa. Dunque preoccupazione sui mercati, preoccupazione per la crescita. Mentre questo avveniva, Barack Obama si incontrava alla Casa Bianca col suo team di economisti e con il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Sentiamolo. Bene, le borse crollavano, l'indice della fiducia dei consumatori cadeva e Barack Obama dice: ho avuto un'eccellente conversazione con il presidente Bernanke, l'economia si sta rafforzando, alcuni settori restano forti, la forza lavoro cresce, ma le parole, come poi quelle contenute anche nel lungo comunicato del G20 di Toronto, ormai non bastano più. Insomma, mi sembra che il presidente Obama in questo caso sia stato un pochettino aloof, come si dice, un pochettino fuori sintonia con quello che stava capitando attorno a lui sui mercati. Tra l'altro, proprio mentre con Bernanke il presidente elogiava il nuovo pacchetto per la riforma del sistema finanziario, che dovrebbe tra l'altro essere approvato entro venerdì, in Congresso partiva proprio in quel momento una fronda che ha portato ieri notte alla eliminazione della mini tassa di 19 miliardi di dollari che avrebbe dovuto coprire i costi del progetto. Barack Obama teneva molto a questa tassa, una tassa punitiva per le banche. Attenzione, perché questa non è la tassa più importante che Obama vuole imporre, ce n'è un'altra che ammonta circa 90 miliardi di dollari, ma comunque il messaggio doveva essere: siamo nelle grane per colpa delle banche, che le banche paghino. Ma che è successo? Che Scott Brown, repubblicano doc di Boston, il senatore tra l'altro ve lo ricordo che soffiò ai democratici il seggio che fu di Ted Kennedy, bene, aveva aderito inizialmente dopo un complesso compromesso al piano, però poi annunciava ieri che non aveva sottoscritto quando era al Senato anche la mozione per le tasse e dunque secondo lui non si sentiva più vincolato. O si toglieva la mozione sulle tasse oppure lui avrebbe votato contro. E così i democratici sono dovuti andare a canossa. Barney Frank, il capo della commissione finanziaria alla Camera, che ha lavorato con Christopher Dodd, il senatore repubblicano responsabile della commissione bancaria al Senato, alla formulazione di questo progetto di legge, ha annunciato che alla fine si sarebbe trovato un compromesso. I soldi si pescheranno dal TARP, non si metteranno delle tasse sulle banche, perché queste tasse, si dice, finiranno poi per ricadere come costo sui consumatori. Secondo me questo è un po' l'antipasto per la battaglia che si va profilando per la tassa più importante. There's more pretty girls than one. There's more pretty girls than one. Every town I ramble around, there's more pretty girls than one. Musica super tradizionale americana, viene addirittura dagli Appalachi, violino, canto, bluegrass, l'interprete e il senatore Robert Byrd, morto l'altro giorno all'età di 92 anni, grande veterano del Parlamento, 60 anni di servizio. Ebbene, Byrd è di nuovo nelle notizie. Ieri vi avevo detto che avrei cercato di raccontarvi un po' la sua storia, che è una storia decisamente interessante. La notizia perché? Perché il suo seggio sarà sostituito da un democratico, ma devono affrettarsi i democratici a sostituire questo seggio, perché sennò per alcuni tecnicismi rischiano di perdere un altro voto al Senato, voto importantissimo. Hanno bisogno i democratici di un sostituto di Byrd, secondo me arriverà già oggi, per poter passare appunto la riforma. Chi è questo signor Byrd? Un senatore che ha fatto record di ogni genere, senatore democratico, è stato al Senato, pensate, per 52 anni, in Parlamento per 60 anni, è morto a 92 anni mentre era ancora senatore, senatore della West Virginia, è cresciuto nell'atmosfera delle miniere, delle montagne, degli Appalachi, si è fatto da solo, è diventato un personaggio leggendario e ha lasciato un'eredità molto forte sul piano politico e ideologico. Il suo ideale era l'antico Senato romano, prima di Cesare, e nella costante battaglia per la spartizione dei poteri a Washington fra esecutivo e legislativo, Byrd non aveva dubbi. Il rischio di cadere in una presidenza imperiale, come l'America di tanto in tanto così sembrava avere e come poi ha avuto sotto l'influenza di Dick Cheney, andava combattuto ed evitato per non mettere a rischio la sopravvivenza stessa della democrazia e dell'identità americana. Un uomo controverso dunque, ma con un fortissimo messaggio, e disse: non fu Caio Giulio Cesare a prendere il potere a Roma, semmai fu il Senato romano a dargli il potere deliberatamente, dopo averci pensato, arrendendosi per fuggire alle sue responsabilità. Ebbene, Byrd non sfuggì alle sue responsabilità, ammise di essere stato parte del Ku Klux Klan, il famigerato gruppo razzista, formò addirittura un suo gruppo negli anni 40, poi passò alla politica e dunque disse che fu un peccato di gioventù, commise una serie di azioni controverse e poi riuscì a portare una gran quantità di denaro nel suo stato, la West Virginia. Pensate che ci sono 52 opere pubbliche dedicate a suo nome. Resta un personaggio leggendario, nonostante gli aspetti controversi, Byrd resta un personaggio amato. E dunque perché l'America oggi piange la morte di questo 92enne straordinariamente controverso? Perché alla fine, laddove c'era la sua irriverenza e la sua spontaneità molto vivace, oggi invece prevale, si dice, l'ipocrisia del politically correct. Dunque, viva Byrd! Le spie russe, vi avevo anticipato ieri come gli Stati Uniti, con una retata, un'operazione organizzata dopo il lavoro di anni, avevano beccato 11 spie russe. Ebbene, c'è stata già ieri la reazione del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. In una nota ufficiale ha detto che i sospetti degli Stati Uniti sono infondati, che l'America è malintenzionata e che questa azione rappresenta un ritorno all'epoca della Guerra Fredda. Sarà. Però queste spie c'erano, non solo, ma sono state inviate, pensate, in America con un investimento di lunghissimo termine, relativamente giovani, alcuni accoppiati, erano stati cresciuti nelle scuole di spionaggio russe e una volta in America avevano preso delle identità di persone morte qui negli Stati Uniti e si erano completamente immedesimati, immessi nella vita americana. Chissà, magari qualcuno di loro avrebbe potuto avere successo, avrebbe potuto conquistare un seggio senatoriale, e dunque Mosca aveva deciso di fare un investimento di lungo termine. In realtà poi queste spie erano un po' delle spiugole, non è che abbiano combinato granché, almeno da quello che abbiamo sentito finora. Uno di questi lavorava in un giornale, un altro lavorava in una piccola azienda e così via. Fatto sta che lo spionaggio c'è stato, gli Stati Uniti li hanno arrestati, ho paura che molti di questi finiranno in carcere per un periodo alquanto lungo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla a Lady Gaga. Perché? Beh, perché è riuscita ad affermarsi di prepotenza al quarto posto, pensate, nella classifica delle 100 celebrità più potenti e più ricche del mondo. Lady Gaga, titolo della canzone che ho scelto per voi, non poteva che essere Poker Face. Bye-bye.